Northwest. Stamattina Perché ho staccato. Praticamente staccato la spina dell'alimentatore. Cazzo, mi ha recitato tutto il baracchino, io non mi ricordavo più. Ho dovuto guardare un video su YouTube. Ho dovuto guardare, cavolo. Ho guardato il video su YouTube e dovevo schiacciare. Devo spegnere l'apparecchio. Schiacciare il tasto rosso dove c'è l'eco, lampeggiava subito, e metterli il coso giusto. Allora sì che andava bene. Ah, è tipo multistandard che ho io, E mentre in Italia devi premere un pulsantino, si spegne l'apparecchio, poi premi il pulsante, accendi e ti dà tutti i vari stati, capito? Capo, ma qualcosa devo fare ancora, perché ho i cosi, come si dice? Canali alfa, quindi devo cercare dove sono i canali alfa, lo vuoi mettere come prima? Sì, i canali alfa già ci sono, se mi sono fatto l'impostazione basta. Finalmente ragazzi, c'è una contentezza, ciò. Cazzo, da più sembra una mantova accorciata, sembra. Già lo so, già. La boomerang sembrava così, sembra. Avendo avuto la Vingo sarebbe stata un'altra cosa, ma c'era la Vingo la mercoledì. Adesso contattati di quella lì, poi in seguito magari se cambi casa che c'hai un bel terrazzo, come si deve, ti c'è un'antenna che vuoi senza creati problemi, capito? La Energy, stai parlando tu, no? Sì, sì, la Energy proprio, sì. Vabbè, ma poi già cambierai casa, quindi già... Magari trovi un bel terrazzo con la ringhiera, non fai altro che agganciarli l'antenna lì e se la bia in Napoli e ce l'hai di fronte, non deve stare azzuffati. Quello che mi rancora un po', cazzo, che adesso non ha problemi, meno male. Ci voleva poco a dirlo, cazzo, l'avrei fatto da prima invece di stare a rifare. La marasucci che ti venga. A volte capita. No, forse praticamente è come che tu. È come che tu non facevi nulla. Tu lo alzavi, lo rimettevi, lo alzavi, lo rimettevi, no. Dovevi girare l'antenna. Il radiale dovevi girare, perché sicuramente erogava qua. Tutto sicuro qua. E deve azzeccare il punto giusto con la boomerang, basta appena che faccia riflesso sopra il tetto, capito? E tira stazionare, se la sollevi, tac, e stazionare sparisco, capita così, sono antenne che hanno i radiali, anche la gran critica ha problemi, se non sollevi la terra a meno 2 metri, ci avrai problemi sempre. Lo so. Tutti antenne rompi il palle, sono... Adesso sono contentissimo. Cazzo, anche i vatti, cazzo, me li misura. Cazzo, me li misura più bene quando si è a zero. Se li misura bene. Sì. Cappa, anche tu sei forte di segnale qua, Qua io non è che sono liscio, sono attaccato, capito? Già di suo l'apparecchio tira fuori quello che c'ha. E quanti watt va questo apparecchio? In FM ne ha 100 anche in banda, 25 in AM so. Minchia. Sì, passanotti mi pare a me. Preparando bassa notte, prego un vento, ciò. Scala 20, così era Alex, per misurare questo, o scala 200. Ah sì, quanti batti c'è all'età? Mi fa i conteggi, no? Se c'hai più di 20 watt devi mettere scala 100, se c'hai intorno ai 10 watt devi mettere da 0 a 10. 12 watt. 12 watt, infatti lo segno. Quello che ho io, il ZX40, 3 watt uscita c'è, giusti giusti. Questo qua. Questo qua ne ha così. A 10, cioè 12 watt c'è questo apparecchio. Già dalla casa, Cioè chi me l'ha fatto l'ha tirato così. Vedi. Già esce bene, la voglia potenza. Già ti bastano 12 watt, basta avanzano. Questo ce ne sono cinesi, anche la 5 tirano fuori 50 watt, a parlare della 27. Ah vero, direi. Su AliExpress c'è, ce ne sono due o tre di quegli apparati così. Tirano fuori 50, 100 watt. Ce ne sono bellini, ce ne so. Ma Sasha le parli? Oh, li devi vedere da fuori, roba cinese. Magari si può fare la metà di cosa, no? Non ti credo, sono io, mi sembra 200, 150 euro, 200 euro per lì. Era un apparecchio che faceva 25, 30, poi 100, 108, 107 mi sembra, fino a, non so, non mi ricordo quanto. Mi vedrai lì, in quel sito, sai quanto l'ho battuto. Trovi anche le bambole giapponesi, la mettete in casa, che ti fanno tutto. Tutti di cui è già tutto. Allora. Tu ci intendi lo zocco cinese, intendi? Lo zocco intendi, pum! Bella mossa. Pensi che faccio un lavoretto, poi già ci sentiamo dopo. Devo cercare di sistemare un'antenna di quelle wifi, se riesco a rimetterla a posto, sennò vivo cazzotto di alzare la lampo. Mi devono regalare un apparecchio dopo, che okay. Vabbè, come dici che pompa voce, lo vediamo. E te lo regalo, prendi tutto al volo, fregate. Sa meglio di chi tu ci cappuccio che faccio. Adesso lo proviamo dopo. Hola, bella mossa. E io sono qua nascosto al limite, là. Quando ritiri mi chiami e ti do un controllo. Pagata, ok. E a dopo, dai, ciao. Ciao, Luca. Oggi era la seconda tappa ed è appena, sono appena arrivati, dai. abitore italiano. Poi io oramai, io da quando l'ho seguito mio padre, ho perso tutti i nomi, tutto qua. Prima mio padre andava anche a vederli dal vero e li conosceva molti ciclisti, erano del suo paese. Beh, indubbiamente sì. Ma adesso sono tutti nomi che non hanno una grande voce in capitolo. Sono finiti i tempi dei grandissimi campioni. Oggi quanti sono, per dire, in un giro 150 colloni, partono insieme e arrivano tutti insieme e finiscono tutti in volata, ma quando mai. Il grande campione invece prima partiva da lontano, si staccava, boh, venite a prendermi se ce la fate. Sono finiti i tempi di Gimondi, Max, Indurain, tutta questa gente qua, Saloni, lavorano ai tacconi, di Pantani, e tutta questa gente qua, tutta gente che quando decideva di andarsene se ne andava e basta. Oggi invece arrivano tutti, partono insieme e arrivano tutti insieme. E poi non c'è cosa che non cadono, c'è sempre una grande caduta in tutte le manifestazioni che fanno. Perché non si distanziano, prima si distanziavano, quindi era difficile che magari si scontrasse uno con l'altro. C'era Moser anche, che era molto bravo. E mio padre era partito sia di calcio che di ciclismo, e pugilato si alzava anche la notte a guardarsi. Sì, quando c'erano gli incontri mondiali, magari dall'America, eccetera, a causa del fusolario, e allora è chiaro che si alzavano, non solo tuo padre, ma l'ho fatto anch'io, e l'hanno fatto tante persone. Ma adesso ormai, a parte il fatto che ormai pugilato in televisione, non ne danno più, salvo qualche incontro così, niente di particolare. In streaming qualcosa vedo io sempre quando decido di guardare in streaming, allora sì, ma sulla Rai proprio, ormai si sono dimenticati dello sport, quelli della Rai, solo qualche cosettina come il Giro d'Italia, poi le partite di calcio, quelle si sa, è ovvio. Anche quelle poi stanno andando in malora col campionato così tutto spezzatino, chi gioca di venerdì, chi gioca di sabato, chi gioca di mercoledì, ma quando mai? Il campionato di calcio non deve essere tutto fatto in una sola serata, ad esempio tutte le volte bisogna fare lo spezzatino, ma non è possibile. Ma... E io penso che anche il pugilato, essendo uno sport molto violento, forse per non trasmettere violenza lo fanno, non lo so, penso che sia così anche quello, che dipende anche da quello. Ma non direi proprio che il pugilato è uno sport violento, diciamo che è uno sport di grande agonismo, quello sì, ma che sia violento proprio no. Per il semplice motivo, cioè violento io lo considero, per dire, se un pugile si batte con me, ma se sono due pugili allenati, che è il loro mestiere, non è proprio violenta quella, quello lì è agonismo, io lo penso che sia così, Gianni, io eviterei di dire che il pugilato è uno sport violento, no, casomai un pugilato è uno sport di grande agonismo, che è fatto da determinate persone che sono in grado di poterlo fare, tutto lì già. E bisogna vedere come lo percepisce chi lo guarda, perché magari lo guardano dei ragazzi, roba del genere, gli trasmette un modo di essere più lenti con gli altri, capito? Quello è che voglio dire, è quello che trasmette agli altri questo tipo di sport. Poi c'è chi lo guarda ed è appassionato e c'è invece chi diciamo che chi guarda il pugilato ha una passione un po' particolare, se vogliamo, perché tantissima gente che non segue lo sport, ma non solo il pugilato, tante discipline sportive, se uno proprio non è interessato, nel senso che diciamo che è appassionato a quella disciplina, non è che può valutare più di tanto, sì, magari può sembrare violento come dici tu a una persona, a una persona appunto che non segue il pugilato, però uno che segue il pugilato da sempre e bene o male qualcosina ne capisce. E allora suppongo che anche quella persona lì, quello sportivo, perché io lo chiamo uno sportivo, un tifoso sportivo, anche quello non credo che consideri il pugilato uno sport violento. Uno sport diciamo di grande agonismo, senza dubbio, questo non ci piove, però definirlo violento no, non direi, ecco. Certo, a carette non si prendono, ma è una passione, specialmente qua a Porto Torres c'hanno molto questa passione del pugilato, c'è molta gente che fa pugilato, c'è Erittu che è molto bravo. Erittu ormai si è ritirato campione d'Italia e ha fatto bene, giustamente alla sua età, diciamo che la sua parte l'ha fatta, anche se non è stato un grandissimo campione, però per l'Italia o perlomeno per la Sardegna ha un piccolo significato, ce l'ha, perché no? Diciamo che uno spaziettino almeno per la Sardegna ce l'ha recuperato, ce l'ha guadagnato. Però diciamo che è di tuo, anche lui è una grande persona, io non lo conosco di persona, però l'ho sempre seguito, conosco molto bene la madre, diciamo che la madre era una allieva di mia moglie, perché veniva ad imparare il lavoro a Maggia, ma adesso da quando c'è il Covid abbiamo chiuso quel tipo di scuola e dunque non ci siamo più visti, però diciamo che di tanto in tanto qualche volta al telefono ci sentiamo, ecco, tutto lì. Già. E invece questa si dice da Pudiga che era bravo, era PGP, ma mi pare Pudiga, però lui era bravissimo. Ma Pudiga anche lui è stato bravo, io Pudiga lo conosco molto bene, intanto perché è mio parente, primo, perlomeno, anche se un po' da lontano, però è sempre un mio parente. E non solo Pudiga e Giuseppino, ma tutti i Pudiga sono stati, diciamo, all'altezza, anche quelli che giocavano al calcio, tipo Mariolino, Pinuccio, non so se tu li hai conosciuti, Michele Pudiga, grande portiere, allora dei tempi che furono, veramente un grande portiere, che ha giocato in diverse categorie. Giuseppino, per quanto riguarda Giuseppino, io di tanto in tanto lo vedo. Se tu lo vuoi trovare, Giuseppino, basta andare la mattina. Tutte le mattine, mancabilmente, lui è davanti al mercato. Lui è Salvatore Pintore, un altro pugile che anche quello ho conosciuto molto bene, in quanto abitava nel palazzo dove abitava mia madre, per cui l'ho conosciuto da ragazzo. Da ragazzo lui, che è molto più grande di me, io penso una decina d'anni, e abbiamo giocato anche al calcio. Lui era pugile e io giocavo al calcio e gli facevo barba e capelli giocando al calcio. Le figuracce che gli ho fatto fare a quello del Salvatore Pintore, tu non hai idea, giocando al calcio, o Gianni, senza nessuna presunzione, però lo posso dire ad altissima voce. Vabbè, non era la sua qualità quella, tu magari eri più predisposto a fare quello, lui era più predisposto a fare il pugile, ognuno c'ha il suo ramo. E vabbè, comunque, che è passato, noi ne avevamo anche uno che frequenta, che era un bravo ciclista, per dire, che Vittorio Giove, quello vinceva un sacco di gare. Sì, l'avevo sentito che Vittorio aveva fatto del ciclismo, però c'erano ciclisti in Sardegna, che altro che Vittorio, se sapessi, lui. Però diciamo anche lui la sua parte l'avrà fatta sicuramente. Io non so a che livello sia potuto arrivare, però circuiti buoni in Sardegna ce ne sono stati tanti, incominciando anche da Umberto Muda, quello della CRAI, o cosa si chiama, o come, che boh, non lo so, insomma quello dei negozi di elementari, Umberto Muda, Flaminio, Ticino, Casu, Scano, e ce n'erano i cordoni che io ho conosciuto tutti, tutte persone più o meno della mia età, quelli erano veri ciclisti, i veri dilettanti di allora, che potevano benissimo fare anche i professionisti, solo che essendo sardi, si sa, come ogni sardo sportivo bravo è sempre penalizzato, e anche loro in quel periodo sono stati penalizzati perché non hanno avuto mai possibilità di uscire dalla Sardegna alla grande, un po' come i complessi musicali eccetera eccetera, se sono stati bravi hanno fuori di azienda, gli altri che è riuscito a farsi notare in campo europeo ad esempio, nessun altro, forse un po' in Bertas, ma non più di tanto. Che Barritas c'erano, dove c'era Benito Urgu? Benito Urgu io addirittura l'ho conosciuto quando lui faceva il circo. Benito Urgu ha incominciato a lavorare al circo, mi ricordo io un ragazzino piccolino e lui già lavorava al circo.